12. Minestra di pan grattato. I pezzetti di pane avanzato, divenuti secchi, in Toscana si chiamano seccherelli. Pestati e stacciati, servono in cucina da pan grattato e si possono anche adoperare per una minestra. Versate questo pan grattato nel brodo quando bolle, nella stessa proporzione di un semolino. A seconda della qualità, disfate due o più uova nella zuppiera, uniteci una cucchiaiata colma di parmigiano per ogni uovo e versateci la minestra bollente a poco per volta.